Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. L'Expo 2015, per quanto incentrato sui temi dell'alimentazione e della sostenibilità energetica, sarà in realtà poi un'occasione preziosa per sperimentare molte tecnologie, soprattutto le tecnologie della città del futuro, nuove modalità per esempio anche di accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini e molto altro ancora. Perciò noi vi racconteremo numerosi, insomma, dei progetti in corso, ma la stessa Expo sarà un modello in piccolo, insomma, però di città intelligente, ed è di questo che vogliamo parlarvi questa sera. Qui con me c'è Federico Pedrocchi, che voi tutti conoscete molto bene. Buonasera Federico. Ciao Maurizio. In linea con noi invece c'è Valerio Zingarelli, Chief Technology Officer, quindi responsabile delle tecnologie di Expo 2015. Allora Zingarelli, immaginiamoci nel 2015 appunto, e nell'area espositiva, che sarà molto grande perché poi non ci saranno solo gli stand di esposizione ma appunto bar, ristoranti, negozi e probabilmente anche delle aree residenziali. Ebbene, all'interno di questo contesto voi state immaginando una città intelligente. Come ha detto lei, il sito espositivo di Expo 2015 è stato progettato e sarà costruito proprio come una piccola città. Quindi dotata di strade, di edifici, di servizi, dai ristoranti, ai luoghi di ritrovo, di divertimento, di informazione, di comunicazione, i servizi proprio di una città vera e propria. Di conseguenza abbiamo colto questa opportunità per gestire la visitor experience, cioè le persone, i visitatori del 2015 che verranno per il tema importantissimo dell'alimentazione e della sostenibilità, in modo che si sentono dentro la città del futuro, dove la vita diventa più facile comunicare, diventa più facile essere informati, diventa più facile muoversi dentro questa città, non si faranno code, quindi non si perderà tempo per avere un servizio, per entrare in un ristorante, per fare dei biglietti, non ci saranno code. Ecco, come è possibile che questo accada? Quali sono gli strumenti che state mettendo in campo per gestire in questo modo nuovo il tempo e lo spazio delle persone? E con le tecnologie del 2015, cominciando a lavorare adesso con le più grandi aziende del mondo, che diventano partner di Expo nel realizzare questa visione, dalle telecomunicazioni, dove metteremo fibra ottica pervasiva che andrà ad alimentare e a connettere tutti i punti dell'Expo. Ogni 20 metri sarà possibile attaccarsi alla fibra ottica per poter avere terminali ad altissima banda, larghissima banda, con cui è possibile fare la Cyber Expo e avere informazioni multimediali, video tridimensionali, comunicazioni radiomobili già di quarta generazione, che permetteranno non solo di portare la larghissima banda di comunicazione ai visitatori, ma anche di fare il posizionamento con precisione al metro delle persone. E grazie a questo geolocalizzazione, sì. Geolocalizzazione con precisione metrica. Certo. Con questo io posso creare una serie di servizi, per esempio la salute elettronica, che grazie alla combinazione del posizionamento con precisione altissima sino al metro, e grazie al fatto che addosso ai nostri visitatori, vorranno ovviamente, sarà tutto volontario, vorranno mettersi questi misuratori, questi bracciali, questi dispositivi che misurano i parametri medici più importanti per capire qual è l'andamento della salute. E grazie alla rete di comunicazione questi parametri saranno, insieme alla posizione, saranno continuamente mandati verso i centri ospedalieri oppure verso i centri di soccorso medico, di monitoraggio medico, in modo che il nostro team di medici ed esperti possano vedere sui terminali, sui display, com'è l'andamento di Mary o di Luigi Rossi in qualunque punto di Expo, in qualunque momento del giorno. Più o meno come si fa di solito con gli astronauti, praticamente. Esatto, come si fa con gli astronauti, noi lo faremo per i visitatori. E poi immagino che... l'esempio della salute elettronica, che sarà, sì, esattamente uno di quei servizi della Digital Smart City del futuro, che dovrà essere poi disponibile a Milano, sulle altre città italiane, sulle altre città del mondo, come eredità di Expo. E poi immagino chissà se vorranno essere tutti geolocalizzati, su questo qualche dubbio. Però con gli smartphone credo che vi divertirete, no? Insomma, ci divertiremo tutti, insomma, con gli smartphone ci saranno un sacco di cose che arriveranno. Sarà l'introduzione di smartphone di nuovissima generazione, che sarà l'integrazione dello smartphone con il tablet, per cui il tablet diventerà pieghevole, per cui quando io devo avere un video, uno schermo grande, lo spiego. Lo apro come un giornale. Come se fosse un foglio di carta. E quindi userò le dimensioni grandi. Quando invece mi serve solo per telefonare, come stiamo a parlare, come stiamo facendo in questo momento, lo arrotoleremo, lo faremo diventare piccolo come un telefonino e lo useremo soltanto per la voce. Sì. Questo è un'altra delle grandi innovazioni, dei grandi servizi che metteremo a disposizione. Oppure i muri elettronici interattivi, dove io, camminando lungo una strada, posso interagire, toccare con le mani un muro, che in realtà è un enorme display piatto, che apre la mia finestra, il mio computer, che mi collega con me stesso ma anche con il resto del mondo. Quindi posso aprire una sessione di videochiamata, per esempio, su questo muro elettronico con un mio amico che sta, che ne so, a Rio de Janeiro, per esempio, e aprire quindi la mia finestra digitale con lui e farò il social network, potrò navigare con i siti web preferiti, le applicazioni, i giochi, eccetera eccetera eccetera. Quindi si apre una finestra di cyber, che vuol dire estendere l'esperienza di Expo 2015 da Milano al resto del mondo, in qualunque punto del mondo. Grazie Valerio Zingarelli. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì, buona serata.